Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, 7:34 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Inizia una nuova mattinata insieme con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10. Cominciamo subito con la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali di oggi che ci accompagnerà verso il giornale radio delle 8 e poi iniziamo con il programma vero e proprio. I nostri contatti, se volete interagire da subito con noi in tempo reale, 349-238-6666 per i vostri sms. La pagina Facebook, lo sapete, Si può fare trattino Radio 24, anche l'account su Twitter è @ Si può fare 24. Vai, iniziamo. E allora, i giornali che dedicano titoli sia alla risoluzione della vicenda dello stadio, o anche meglio detto progetto Business Park, ex Business Park a questo punto, progetto con cubature dimezzate per quanto riguarda i palazzi, la parte di nuovi palazzi a Roma, e poi anche invece la decisione all'interno del PD di tenere le primarie il 30 di aprile, una bella decisione di quelle che riconciliano sicuramente gli elettori, visto che in mezzo al ponte del primo maggio uno dice andare in vacanza sabato, domenica e lunedì, magari deve andare a votare le primarie del PD. Vabbè, di questioni interne al partito e di maggioranza relativa in questo momento e anche di governo. E poi titoli che riguardano sia la vicenda Mediaset che a questo punto la rinuncia all'intesa che boccia, scrive il Sole 24 Ore, il dossier generali, quindi le due vicende di finanza che hanno tenuto un po' il fiato sospeso sin qua. Per esempio il Corriere dedica il secondo titolo alla scalata, per la scalata a Mediaset è indagato anche l'amministratore delegato di Vivendi, i francesi, esposto infondato, titolo giù del 3,9%. Accade che appunto l'amministratore delegato di Vivendi, ma anche il patron Bolloré, risultino entrambi indagati, ma insomma erano atti forse in qualche modo attesi dopo gli esposti di Mediaset alla Consob, che poi sono arrivati in procura. Titolo principale però del Corriere della Sera, dedicato invece, e partiamo da qua, alla questione, dicevamo, del progetto stadio. Raggi sì allo stadio dimezzato. La sindaca rinvia per un malore, poi chiude l'accordo con la Roma. Il nodo delle autorizzazioni, scrive Repubblica, accordo tra Movimento 5 Stelle e la Roma sul nuovo stadio, tolte le tre torri e cubature dimezzate. Vediamo come, se lo trovo sul Messaggero, il quotidiano romano, viene affrontata la questione. Naturalmente titolo principale, Raggi cede, qui si usa un'espressione, diciamo, in qualche modo con una connotazione non positiva, forse Raggi cede, come se fosse una cessione in qualche modo. Primo sì sullo stadio. Del resto le contrarietà all'interno del Movimento 5 Stelle romano al progetto del vecchio stadio in effetti c'erano tutte, ed erano anche molto, devo dire la verità, abbiamo detto in tutti per una volta, forse la stampa non sarà criticabile o criticata da parte del garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, perché le perplessità che sono state sollevate e riportate dalla stampa, dai media, le critiche fatte non tanto dalla stampa ma anche dai romani, da altre persone, da osservatori, da esperti, da tutto quello che volete, ambientalisti eccetera eccetera, sulla questione dello stadio, sono poi state le stesse perplessità che sono state raccolte dai consiglieri romani del Movimento 5 Stelle, che hanno portato a questo nuovo accordo, un accordo che andiamo a vedere di che si tratta. Si tratta di questo. Si tratta di un accordo che prevede una riduzione appunto delle cubature fino al 60% per quanto riguarda il business park, il 50% complessivamente, quindi da 1 milione di metri cubi di cemento che dovevano essere riversati in quell'area di Tor de Valle si passa a circa la metà, di cui a sua volta all'interno di questa metà circa un terzo sarà il nuovo stadio e l'altro saranno che cosa? Qualche palazzo, sì, negozi e servizi. Una vicenda ricorda il Corriere della Sera che nasce nel 2012 quando la Roma insieme alla società immobiliare Cusman and Wakefield, sceglie l'area di Torre di Valle tra un'ottantina di aree selezionate a Roma per fare il nuovo stadio. 2 anni più tardi, a dicembre sempre 2014, il via libera dell'assemblea comunale di Roma, allora con la giunta Marino. Ancora 2 anni più tardi circa arriva lo stop però da parte della sovrintendenza delle belle arti, 3 anni dopo, siamo nel 2017, qualche giorno fa, per una incongruenza nel progetto rispetto a quelli che sono i vincoli dell'area. Adesso la decisione, che però poi dovrà passare dalla conferenza dei servizi del 3 di marzo e che quindi dovrà in qualche modo, c'è un altro passaggio burocratico che deve avallare definitivamente questo progetto, dare il via libera. Allora, oltre al taglio della cubatura sono state inserite, scrive il Corriere, una serie di clausole legate alla realizzazione delle opere pubbliche e alla costruzione dei negozi che cambiano in maniera pesante il progetto allegato alla delibera originaria. Per andare incontro alle richieste dei grillini, i rappresentanti della Roma e il costruttore Parnasi hanno accettato una riduzione del 50% delle cubature. Oh, ecco, questa è la cosa importante, va detto, va assolutamente sottolineato come un aspetto positivo. Si doveva spiegare perché per realizzare un nuovo stadio c'era bisogno di costruire 7 volte tanto di palazzi intorno, in una città, Roma, dove di palazzi nuovi, vuoti, ce ne sono già molti. E quindi questa è la domanda fondamentale, domanda che a questo punto cade con il taglio del 50% delle cubature e l'eliminazione però anche di alcune opere come la cosiddetta bretella sulla Roma-Fiumicino e un ponte sul Tevere. Questo è un punto criticato anche da altri giornali che dicono si tagliano anche le infrastrutture, ma vediamo. Un punto su cui ci potrebbe essere l'intoppo, scrive il Corriere, è però un altro, ed è proprio quello relativo alle infrastrutture, ma al prolungamento di un tratto della metropolitana. Su questo le incognite appaiono numerose, soprattutto tenendo conto dei ritardi nei cantieri delle linee già approvate dalle precedenti giunte. Quindi agganciare questo progetto alla realizzazione di questo tratto della metropolitana potrebbe essere rischioso, ma tant'è. Poi c'è la questione negozi. Ieri sera Virginia Raggi ha specificato nel corso dell'incontro che dovranno essere gli abitanti del quartiere ad indicare le priorità e su questo si procederà a concedere le autorizzazioni anziché il centro commerciale negozi. E anche questo è un tratto distintivo voluto dal Movimento 5 Stelle, che va incontro a tante richieste, alcune richieste, forse non tutte, tante di cittadini che più che centri commerciali, comodi centri commerciali, che però a volte magari sono distanti chilometri da dove abiti, vogliono giustamente anche qualche negozio di vicinato. Gli aspetti negativi del progetto sono sottolineati da altri giornali, per esempio su Repubblica trovate la notizia a pagina 15, solo a pagina 15, dopo aver tenuto invece in prima pagina e nelle pagine principali la notizia dello stadio rimandato, i problemi del Movimento 5 Stelle eccetera eccetera. Adesso Repubblica però delega con un titoletto e a pagina 15, senza grossi approfondimenti, la notizia: Roma sì al Movimento 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle allo stadio, via le torri dell'Archistar, ma meno infrastrutture. Le infrastrutture che sono state tagliate sono quelle che si dicevano prima, e cioè a dire una bretella stradale ed un ponte sul Tevere. Così anche per il Messaggero, e chiudiamo tra poco su questo. Stadio c'è l'accordo, ma tagliate le cubature e le opere pubbliche. Ripetiamo, sul taglio delle cubature ce ne faremo una ragione, perché di palazzi vuoti nuovi a Roma ce ne sono già tanti, di palazzi da ricostruire da risistemare, abbandonati, ce ne sono tantissimi. Oggi il cemento e l'edilizia devono essere, se devono essere, di chirurgici, di intervento, di recupero, non possono, piacerebbe anche a me avere, essere ancora negli anni 60 col boom edilizio, ma guardatevi intorno e non c'è più spazio, quindi chiaro che tutto deve essere calibrato in modo nuovo. Per quanto riguarda invece il taglio delle opere pubbliche, da cittadini si può guardare con sospetto a questo, ma insomma staremo a vedere, perché ripeto, si conferma la realizzazione della stazione per la nuova ferrovia Roma-Lido, e invece si, appunto, si tolgono dall'opera un ponte sul Tevere e uno svincolo della Roma-Fiumicino, che vengono rinviati, progetti che vengono rinviati a data da destinarsi. Saranno poi, appunto, passaggi successivi, i romani a dare anche un giudizio su quanto importante siano questi, questi due aspetti tolti dal progetto. Chiudiamo con anche il Fatto Quotidiano, che segue la vicenda anche qui un po' a distanza, ma insomma Virginia va in ospedale, poi esce di mezza le cubature dello stadio. Su altri giornali addirittura la notizia non c'è, oddio c'è per esempio, ma non c'è per esempio sul Libero, che a Roma dedica solo questo titolo: cara Virginia, più carbonare e meno polizze, in riferimento alla Raggi, scritto testuale, denutrita e ricoverata. Ora, su cosa abbia avuto Virginia Raggi, che ieri è stata colta da un malore, c'è ovviamente anche un riservo di privacy, che è stata chiesta tra l'altro dal Movimento 5 Stelle nettamente, così come è accaduto anche in altri casi. Però certo, di Gentiloni si seppe che era stato ricoverato per che cosa? Per una questione leggera, questione cardiaca. Di Virginia Raggi non si sa al momento il motivo del ricovero. Da qualche parte si scrive, si fa riferimento appunto a un colpo di stress e ad una denutrizione, cioè il fatto che insomma era un po' deboluccia, dai, sta reggendo una pressione mediatica e non solo enorme, bisogna dirlo, questa sindaca, non essendo politica di professione, non essendoci abituata, probabilmente ha sottovalutato un po' il calcolo dell'energia a disposizione. Traffico, ci fermiamo, torniamo tra poco. E allora, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da me, da Alessio Maurizi. Stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi. Chi se ne frega dello stadio, basta con Roma, scrivete. Sì, adesso basta con Roma, ne abbiamo parlato abbastanza, però capite che se ne è parlato tanto prima, sottolineando le incertezze, gli inciampi della Giunta Raggi. Adesso che una decisione è stata presa, intanto è giusto dare la notizia, intanto personalmente, ma credo si possa dire tranquillamente che è una buona notizia. Perché è una buona notizia per chi? Per gli sportivi, va bene, per i tifosi del calcio, direte voi, chi se ne frega. Beh, però il calcio è un grande volano anche economico. Gli investitori che hanno rilevato la Roma avevano minacciato di andarsene se non si potevano realizzare le condizioni di uno stadio di proprietà, che è una condizione per il calcio moderno ritenuta quasi da tutti importante, se non indispensabile. E quindi una notizia positiva, anche perché il progetto si ridimensiona e si cala sulle necessità di realizzare, appunto, che cosa? Uno stadio, e non una serie di palazzi intorno allo stadio. Tant'è vero che in tanti, nei giorni scorsi, invitavano a definire il progetto non un progetto dello stadio, ma un progetto di business park, così è stato chiamato dai costruttori. Quell'enorme colata di cemento con torri alte fino a 60 piani, che adesso però sono state tolte da questo progetto. E questo credo che possa segnare un confine anche per altre città, per altri progetti edilizi, perché su questo bisogna dirlo che il Movimento 5 Stelle segna una inversione di tendenza, una novità rispetto al passato. Fine del pippone, adesso vi porto su altre notizie prima di arrivare alla questione dei furbetti del cartellino di Napoli, perché è incredibile ma istruttiva. Ci sono però notizie che riguardano importanti società italiane. Titolo principale del Sole 24 Ore: Intesa boccia il dossier Generali. Messina, non abbiamo individuato le opportunità per creare valore per gli azionisti. Il passo indietro dopo una verifica sulla compagnia assicurativa durata un mese. La banca va avanti con il piano di crescita. Che succede? Che Intesa San Paolo chiude il dossier generale su una possibile combinazione industriale. Parliamo di due giganti della finanza italiana, banche e assicurazioni. Intesa e Generali, quindi notizia molto importante. Dopo una verifica durata un mese, il gruppo guidato da Carlo Messina ha reso noto di avere completato la valutazione in base alle informazioni allo stato pubblicamente disponibili su Leone di Trieste, cioè su Generali, non sono state individuate le opportunità rispondenti ai criteri come condizioni all'aggregazione. Vabbè, per farla finita non ci interessa, lasciamo perdere. Così su Repubblica, Generali, Intesa chiude il dossier, no alle nozze, banca assicurazione, e così anche altrove. L'altra notizia sulla stampa, svolta Intesa, rinunciamo a Generali. L'altra notizia è questa: Bolloré indagato, Vivendi frena la scalata a Mediaset. Per la scalata a Mediaset indagato anche l'amministratore delegato di Vivendi, scrive il Corriere della Sera. Andiamo a vedere all'interno di che si tratta. Insomma, facendo seguito a quelli che erano stati gli esposti di Vivendi alla Consob su questa accusa, ipotesi di aggiotaggio, la procura ha aperto questa indagine e adesso uno stop obbligato che ridisegna gli equilibri del potere bancario. Non troviamo all'interno dei giornali gli approfondimenti su questo in questo momento, ma insomma la notizia è molto semplice: indagato sia il patron di Vivendi, finanziere bretone Vincent Bolloré, sia l'amministratore delegato dello stesso gruppo. Dicevamo però della vicenda, che è un altro titolo di prima pagina: l'ospedale degli assenteisti, al tennis o a fare lo chef. Napoli, 55 arresti, il procuratore, adesso li obblighiamo a lavorare. Perché in effetti in questa vicenda c'è anche questo, c'è anche il fatto che su 94 indagati in questa lunga indagine, inchiesta della magistratura sugli assenteisti in questo ospedale alle porte di Napoli, su 94 persone per 55 sono scattati gli arresti domiciliari, per altre si è invece deciso di lasciarli in qualche modo liberi per tornare, cioè lasciare i domiciliari per tornare a lavorare. Speriamo però che ci vadano a lavorare, perché visto i precedenti, visto il passato, non c'è da scommetterci. C'è un recordman, per esempio, del cartellino truccato che avrebbe timbrato 493 volte al posto del collega o dei colleghi, 493 volte in un anno e mezzo, cioè praticamente regolarmente tutti i giorni timbrava due o tre cartellini oltre al suo. Il manager, leggiamo alcune di queste storie esemplari, che sono poi le storie che ci ritroviamo spesso a volte intorno nei vari uffici, no? E uno poi magari stenta a crederci o non ha il coraggio di denunciare. Adesso c'è anche il sistema del whistleblowing, cioè puoi mandare una denuncia anonima via mail al capo del personale. Fatelo, perché questa gente va assolutamente smascherata. Il manager che all'ufficio preferisce la racchetta, tradito dal tennis e dall'incontro con un potente manager della sanità privata, Tommaso Ricozzi, dirigente medico del Loreto Mare, specialista in radiologia, 60 anni, truffava l'ospedale due volte, risultando in servizio quando non c'era per dedicarsi al tennis e lavorando nel suo centro diagnostico Augusto, violando così il contratto di esclusiva. Per lui nessun arresto, possiamo ben mettere un inciso purtroppo, ma il sequestro di 126.000 euro. Doveva vigilare, ma è lo chef del resort, questa è un'altra storia. Luigi Porcello, 53 anni, di mestiere coauditore amministrativo presso la direzione dell'ospedale, l'ufficio che avrebbe dovuto vigilare sugli assenteisti, capite? Questo era il capo dell'ufficio che avrebbe dovuto vigilare sugli assenteisti. E cosa faceva? Secondo la procura, in molti casi Porcello è risultato del tutto assente dal lavoro, stava svolgendo l'attività di chef presso il ristorante Villa Minieri di Nola, a cui mando un invito. Ma come cavolo li selezionate gli chef, caro ristorante Villa Minieri di Nola. Cioè, non sapevate che questo signore faceva, era un medico e lavorava in un ospedale, o meglio, forse era un amministrativo e lavorava anche in un ospedale. È una cosa pazzesca. Vabbè, poi c'è anche chi andava in giro a fare shopping in gioielleria. Questa è bellissima. Questo signore qua, Eugenio Variale, chiama il suo medico e ordina alla segretaria: mi puoi fare 2 giorni di malattia? Così al telefono, mi puoi fare 2 giorni di malattia? Lei ovviamente inchinata, grande operatore sociosanitario che evidentemente godeva della disponibilità, della complicità del dottore, gli fa i 2 giorni, poi questo chiama in ufficio e finge una tosse che prima al telefono con la segretaria del dottore non aveva. Mi sento male, devo stare a casa, eccetera. Vabbè, insomma, finiamola qua. Però, ecco, quindi insomma, la buona notizia c'è. Certo, c'è anche, come ci ricorda la stampa, il problema che siamo a metà del guado in questa operazione di repulisti. Dopo i furbetti di Brunetta, dopo la legge Madia del 2016, tra l'altro ha avuto un inciampo anche con una bocciatura della Corte Costituzionale su altri aspetti. Insomma, gli ultimi dati sono questi. Disponibili dal 2015 sono stati 8.259 i procedimenti disciplinari avviati in tutta la pubblica amministrazione, le sospensioni dal servizio superiore ai 10 giorni sono state 581, appena 280 i licenziamenti ottenuti, e quindi su 100 azioni disciplinari solo il 3% si concludono con l'azione disciplinare maggiore, cioè il licenziamento. Ora magari in alcune di queste azioni disciplinari poi si scopre che non c'era una vera e propria truffa, però 3 su 100 è poco, è pochino ancora, anche se il volume complessivo è in crescita del 23%. Insomma, ci stiamo muovendo nella direzione giusta, ma appunto siamo in mezzo al guado. Velocissimo, chiudo con Amatrice, perché a 6 mesi dal terremoto molti giornali ci fanno capire che stiamo in forte ritardo, in fortissimo ritardo. Non c'è tempo per leggere questi articoli, ma insomma sulla ricostruzione muoviamoci anche sulle casette ai terremotati. GR a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno, buon sabato a tutti da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24. Cominciate se volete subito a chiamarci per stare con noi, stiamo insieme fino alle 10. Carlo, Milano Monterosa? C'è il sole, bene. C'è il sole, sono molto contento. Inizia a esserci anche un pochino più di luce, non so, forse dirò una castroneria. Le giornate si stanno allungando, è giusto, è normale, è tutto nella norma, anche se siamo a febbraio. Ed è già molto più piacevole venire in radio quando c'è il sole e la luce. Volevo salutare gli amici del Castello di San Mezzano. Ti ricordi che sono stati con noi quando erano in mezzo al guado, con un castello meraviglioso ma di proprietà privata, con un'asta andata deserta, non si può visitare. Allora c'è questo gruppo di cittadini, che amici di San Mezzano, che si sono messi in testa di partecipare al rilancio dal basso di questo gioiello. Perché? Perché nella classifica dei luoghi del cuore del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, sono risultati i più votati con un sacco di voti e sono in cima quindi alle preferenze degli italiani come luogo del cuore. Insomma, il FAI gli ha dato una mano in questo caso, una mano gli avevamo data anche noi a farsi conoscere, e speriamo che questo luogo bellissimo italiano abbia un destino, una nuova rinascita, perché quando aperta al pubblico, assolutamente, quando li abbiamo sentiti, appunto, come stavi dicendo tu, insomma, ci tenevano moltissimo, gli sembrava tutto molto difficile. Adesso hanno vinto questa classifica di cui anche abbiamo parlato, del FAI, di vota al tuo luogo del cuore, e quindi uno più uno a questo punto sarà una storia stupenda. Speriamo che sarà veramente un si può fare che continueremo a raccontare. Esatto. E a proposito di cose da salvare, da tutelare, da salvaguardare, mettiamoci dentro anche la pizza? Ce la mettiamo dentro allora? La notizia, certo, che ce la mettiamo. È questa qua. Il presidente dell'Islanda, c'è voluto il presidente dell'Islanda, sentite qua, l'avrete letta forse in settimana questa notizia, parlando all'interno di una scuola, quando ha chiesto a uno dei bambini, a noi piace poi parlare di cose da mangiare anche se andiamo in onda la mattina molto presto, forse però, è per quello, perché abbiamo già fame. Qual è il tuo piatto preferito? La pizza con l'ananas. E lui ha detto no, diavocelo, no, questo non si può fare. Addirittura ha detto andrebbe vietata. Che però è strano, perché in realtà la pizza con l'ananas è un must per molte persone. A molte persone piace, quindi non è una stranezza totale, se vogliamo. In più c'è chi dice ovviamente sulla pizza ci si mette qualunque cosa, quello che vuole. Esistono anche le pizze dolci. Allora, nel momento in cui l'UNESCO, tra l'altro, sta valutando se inserire la pizza napoletana tra i patrimoni dell'umanità, quella senza ananas, quella senza, sottolineiamo. Allora noi vi chiediamo, a parte se siete d'accordo oppure no col presidente islandese, vietare per legge la pizza con l'ananas, ma le cose più strane che avete mangiato, perché capita in effetti sempre di più di ritrovarsi nel piatto, soprattutto in ristoranti di un certo tipo o anche di fronte a chef improvvisati che vogliono scomporre e ricomporre qualsiasi cosa di piatto con risultati disastrosi. Certe cose non si possono fare. Ecco, stamattina partiamo, non si può fare questo in cucina, cioè, questa ricetta. Sarebbe bello appunto che su certe cose dice questo è veramente oltre, e mi vengono in mente, spesso si leggono di ricette che uno dice vai, ma bisognava proprio inventare anche questo, la carbonara vegana, che uno dice benissimo se sei vegano, forse devi inventare un altro piatto, non è che devi imitare un piatto che già esiste però farlo senza niente, cioè l'hamburger senza carne è sempre difficile, esiste sì, quello di soia e così via, quindi anche di andare su quelle ricette che cercano di dirci da ora in poi si fa così e bisogna assolutamente, alcuni dicono anche l'aceto balsamico, che c'è stato un momento in cui andava assolutamente messo su tutto, sembra che se offri una fragola senza dell'aceto balsamico sei un pirla, è esagerato, forse le fragole si possono mangiare anche con lo zucchero e il limone, ecco, anche questo tipo di ricette che continuamente cercano di venderci, che uno dice ecco questo forse è oltre il plausibile, io vieterei questa ricetta. Stamattina sfogatoio su questo, 800 24 00 24. Voi direte, ma perché stamattina quelle di si può fare sono andate a ripescare RAF con self control? Ecco, davvero, ma perché? Non lo chiedo anch'io. Allora, la notizia è questa. Perché nella giusta settimana in cui ha fatto molto discutere la proposta dei commercianti di Bologna di mettere dei vigilantes privati armati per strada per prevenire furti e altri atti di vandalismo, in particolare nel quartiere della Bolognina, però il comune non è d'accordo e insomma l'idea di avere guardie private armate in giro per strada non mette proprio tutti d'accordo, perché è un po' inquietante. Da Verona arriva una proposta diversa: per affiancare le forze dell'ordine con il territorio non si punta più su quel tipo di soluzioni, ma su cittadini auto-organizzati che quindi fanno e una disarmati forma di autocontrollo, esatto, i famosi gruppi del controllo di vicinato. Noi ne abbiamo parlato in passato, sono volontari formati, coordinati a volte da un referente, ci sono gruppi di WhatsApp nei quali si fanno circolare le notizie. Di che si tratta? Lo chiediamo direttamente al sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Grazie, buongiorno per essere qua. Io ho spiegato un po' di che si tratta, però lo chiediamo a lei perché è la prima volta che questa cosa sbarca in una grande città, perché fino ad ora il controllo di vicinato era stata... Noi ne abbiamo parlato spesso di posti molto più piccoli. Esatto, nel nord, nel nord-est, città magari piccole dove ci sono tante unità abitative separate l'una dall'altra e dove c'è un po' di preoccupazione per la sicurezza, e erano stati attivati questi gruppi. Adesso a Verona come funziona? Cosa faranno i cittadini veronesi, Tosi? Allora, adesso ci saranno degli incontri nei quartieri dove l'associazione, perché siamo un'associazione nazionale del controllo di vicinato, che si mette a disposizione per formare, nel senso proprio per istruire i cittadini che intendono far parte di questi gruppi di quindi c'è una fase anche di formazione. Sì, perché ci sono anche delle modalità, certo, che sono banalmente quella che uno non deve mai intervenire in prima persona, deve segnalare le forze dell'ordine, ma mai intervenire. Più sentinelle che ronde, esatto, che vigilante, diciamo così. Esatto. Di filtrare le segnalazioni alle forze dell'ordine, perché ci deve essere un coordinatore per ogni zona, cioè nelle zone dove ci sono, sì, più persone che fanno parte di questa associazione, di questi gruppi, ci deve essere un coordinatore che filtra le segnalazioni alle forze dell'ordine, ma chiaramente deve essere una segnalazione possibilmente qualificate. Ecco, no? Questo è importante, no? Perché sappiamo che spesso c'è un eccesso di telefonate, di segnalazioni, esatto, magari l'anziano che passa nel quartiere vede un motorino fuori posto, si preoccupa, e allora poi arrivano talmente tante segnalazioni che poi spesso le forze dell'ordine che fanno filtrano al punto poi di quasi di vanificare anche. Invece in questo caso con un referente arriveranno delle segnalazioni più qualificate, alcune persone autorizzate, e quindi diciamo che fanno da filtro rispetto alla moltitudine delle possibili segnalazioni. E poi ovviamente c'è la cartellonistica, perché nelle zone dove saranno presenti questi gruppi si mettono dei segnali che indicano che è attivo il controllo di vigilanza, che è quel cartello bianco, giallo, esatto, e nero con che cosa c'è disegnato, spieghiamolo magari, c'è perché... disegnato un agente delle forze dell'ordine con una famiglia, fa capire appunto di questo tipo di rapporto fra appunto le forze dell'ordine, cioè che anche le forze dell'ordine hanno una famiglia. qualcuno infatti sui social ha voluto ironizzare su questo dicendo qui abitano famiglie di poliziotti. No, ma le volevo chiedere una cosa, nel senso, sì, che è giusto che facendo a coordinamento esiste un referente, quindi fanno un po' da filtro, però rimane il fatto che qualunque cittadino può chiamare direttamente le forze dell'ordine. Ma ci mancherebbe altro, quello sicuramente sì, quello è accade normalmente già adesso. Qui il punto è il coordinamento e la maggiore attenzione, perché nel momento in cui un discorso è la segnalazione sporadica del cittadino che vede un episodio e lo segnala, un discorso è delle persone che si impegnano, quindi è un fatto anche di senso civico, di senso di comunità, che si impegnano a far parte di questi gruppi, e quindi vuol dire che si impegnano di più a sorvegliare, perché vuol dire che stanno attenti durante la giornata reciprocamente a vigilare sui vari immobili. Insomma. Senta, ecco. Tosi, noi quando abbiamo incontrato i gruppi di controllo del vicinato altrove, a Seveso, mi ricordo, col sindaco della città, eccetera, e in altre piccole realtà, loro ci hanno detto da quando sono attivi questi gruppi abbiamo notato in effetti una diminuzione delle denunce e anche dei reati proprio. Quindi noi siamo contentissimi che questo funzioni, appunto, senza armi, quindi anche senza rischi per tutti. Però le voglio chiedere, in una città più grande come Verona, dove non so se i rischi, i pericoli possono essere maggiori, comunque sicuramente maggiore è, come dire, il peso specifico dell'istituzione, del comune, visto che avete firmato questo protocollo, il comune da parte sua in che modo sostiene queste associazioni che nascono come forme di volontariato, iniziative private, in che modo il comune fa come dire, la sua parte e dà sostanza a questo peso di controllo del vicinato? Ma allora, diciamo, noi per quanto riguarda a parte gli investimenti in sicurezza, le telecamere eccetera, e quelli diciamo li facciamo a prescindere, quasi sempre anche quelli, fra l'altro, su segnalazione o richiesta dei cittadini, perché poi spesso le telecamere vengono collocate su istanza di cittadini in zone magari ritenute meno sicure di altre. Quello che si fa ovviamente sarà posizionare i cartelli che abbiamo descritto prima, e poi il comune fa da diciamo promotore di questa iniziativa, perché organizza nei vari quartieri gli incontri con la cittadinanza in modo tale che chi è interessato possa informarsi e eventualmente aderire a questi gruppi di E per esempio anche questi corsi di formazione cui ci diceva prima, che riguardano i cittadini o forse anche magari chi punta a diventare referente del controllo di vicinato di quel tipo di quartiere lì, questi corsi chi li paga, chi li sostiene? Il comune? Diciamo le spese le copriamo noi, evidentemente. Ma io le volevo chiedere una cosa che forse è stupida. Io mi chiedo, c'è da essere contenti, perché questo è un segnale per cui vuol dire che le persone hanno voglia di occuparsi della collettività, di occuparsi della propria protezione, oppure è un brutto segno perché vuol dire che in realtà lo Stato o l'amministrazione pubblica non ce la fa da sola? Ma allora, diciamo, preso atto della situazione è quella che è, perché poi più che altro forse bisognerebbe cambiare le leggi, perché le forze dell'ordine, per quanto in numero non adeguato, ci sono, e fra l'altro a Verona devo dire che lavorano molto bene, hanno un'ottima efficienza nei risultati che raggiungono in termini di arresti e di scovare i responsabili dei vari reati. Cioè, bisogna cambiare le leggi, perché, per dire, questo è un caso di ieri, ma se ne leggono tutti i giorni, in un grande condominio che c'è in zona stadio, erano settimane che c'erano furti nei garage, le forze dell'ordine hanno arrestato i due ladri e questi sono stati liberati il giorno dopo con l'obbligo di dimora, cioè non devono uscire di sera. Questi andranno sicuramente a rubare di nuovo. Quindi però andranno di giorno. No, ci andranno anche di sera. Nel momento in cui sono di fatto liberi, fanno quello che vogliono, e sapendo come vanno le cose in Italia, cioè se uno ruba e viene rimandato a casa, capisce che il sistema non funziona. Uno che ruba deve stare in galera. Ci stia una settimana, ma in galera ci deve stare. Senta Tosi, chiarito come funzionano questi gruppi di controllo del vicinato, in che modo il comune li sostiene con questi corsi di formazione, anche installando i cartelloni, i cartelli che indicano nei vari quartieri dove sono attivi questi gruppi, chiedo anzi agli ascoltatori all'800 24 00 24 già, se vogliono, di chiamare per dire se questa ricetta li convince o li convince di più, per esempio, di quella che è la proposta che arriva dai commercianti bolognesi di avere vigilantes privati armati per le strade della città. Lo chiedo a lei. Lei autorizzerebbe una cosa così se i commercianti della sua città dovessero chiederglielo? Guardi, noi comunque abbiamo vigilantes pagati dall'amministrazione, armati, che presidiano alcune zone della città. Noi abbiamo, diciamo, integrato il lavoro della municipale, delle forze dell'ordine. Ma non puoi avere purtroppo un agente in ogni giardino, perché non ci sono i numeri e la forza per farlo. Purtroppo, per fortuna, forse, proprio in ogni giardino un vigilantes, dopo un po' diventano dei nani da giardino. Però li dico, in alcuni grandi parchi che possono essere più problematici, noi paghiamo dei vigilantes di un istituto di sicurezza, di sorveglianza, che armati girano nelle ore serali in particolare, in maniera tale da dare più sicurezza ai cittadini. Però un conto è, credo che possa fare una differenza per il cittadino sapere che è l'amministrazione comunale a convocare, selezionare e pagare queste guardie private. Un conto è, come chiedono appunto i commercianti bolognesi, di farlo privatamente. In questo secondo caso. Ma le direi che a me la cosa non turba, perché siccome la responsabilità della formazione e del comportamento della guardia giurata ce l'ha l'istituto che l'ha assunto, e quindi sono persone che hanno una formazione specifica. Sì, se però la differenza, è che, almeno forse sono ignorante io, ma finché stiamo all'interno di un'area privata, il vigilante privato ha un significato, ma per strada, sotto i portici, a controllare proprio il territorio pubblico delle guardie private... Ma chiaramente lì la finalità, dopo è chiaro che c'è un effetto di deterrenza generale, lì la finalità è quella di controllare gli esercizi commerciali che pagano questo vigilante, chiaramente. Quindi l'indicazione sarebbe da parte sua di concederlo, però concederlo sempre nelle vicinanze del negozio. Da vista contrattuale non può essere così, però ripeto, io l'apprezzerei, perché comunque è una presenza di una persona armata che dà sensazione di sicurezza. Senta, un'altra cosa che salto completamente di palo in frasca prima di salutarci, siccome la notizia di ieri, raggiunto l'accordo per il progetto di stadio a Roma da sindaco di una grande città, tra l'altro voi avete la questione dell'arena, la copertura dell'arena, mica l'arena eccetera, come giudica questo progetto che alla fine sembra che si debba fare un ridimensionamento di tutte le cubature, come chiedevano in molti, perché insomma oggi costruire ulteriori cattedrali nel deserto sembra inutile oltre che dannoso. Che ne pensa? Ma io credo che sono andato a guardarmi un attimo a prendere qualche informazione. È una scelta corretta, perché intanto gli stadi privati sono una realtà intelligente, dove non è più il comune il titolare dello stadio con tutti i costi annessi e connessi, ma è appunto la squadra che si fa il suo stadio. Chiaramente per farci il suo stadio deve avere anche dei ritorni economici, quindi con degli spazi commerciali o d'altro che garantiscano, insomma, l'investimento. Normalmente, come anche nel caso di Roma mi pare di aver capito, poi chi fa questo investimento dà al comune altre opere pubbliche in cambio del permesso di costruire, quindi è una scelta equilibrata che poi consente normalmente dei risparmi per la pubblica amministrazione, che, ripeto, quando lo stadio è di proprietà comunale ha dei costi per la pubblica amministrazione. Va bene, grazie Tosi, grazie per essere stato con noi, il sindaco di Verona, buona giornata. A voi, grazie. Grazie. Gli abbiamo chiesto un giudizio anche su questa notizia fresca, insomma, di ieri sera, che non riguarda la sua città. Invece la cosa da cui siamo partiti sono i gruppi di controllo del vicinato. Cari ascoltatori, vi ha convinto questa ricetta, questa proposta che per la prima volta sbarca in una grande città, anche se ci scrivete che a Venezia sono attivi già da qualche tempo e forse chissà, magari anche in altre città. Nella stessa settimana, cioè questa, si è fatto un accordo anche a Reggio Emilia per una cosa simile, c'era presente anche il capo della polizia. Si tratta di un'iniziativa più istituzionale, questa è un'iniziativa che è un'emanazione proprio dell'associazione Controllo del Vicinato, che nasce, lo ripetiamo, in piccole città del nord, del nord-est, e adesso arriva fino a Verona. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Anche sulla questione delle ricette, qualcuno ci scrive su Twitter: se non avete mai provato la pizza ananas e gorgonzola, c'è poco da commentarla. Io devo ammettere che il gorgonzola è l'unica cosa che non mangio, ma perché purtroppo, e mi spiace molto, perché so che tutti dicono che è buonissimo, ma è l'unica cosa che non riesco a mangiare. Quindi io non l'ho mai assaggiata, ananas e gorgonzola. Ma io me ne sto andando, perché questa è troppo, questa è troppo. Ananas e gorgonzola è troppo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua. Cari ascoltatori, 800 24 00 24. Chi abbiamo? Riccardo dalla provincia di Venezia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Vai Riccardo. Sì, io sono consigliere comunale annuale. In questo periodo stiamo promuovendo i controlli del vicinato anche nel nostro comune. Dove? A Noali, in provincia di Venezia. Ah, no, ci eravamo persi il nome. A Noale, benissimo. A Noale, provincia di Venezia. Siamo quanti partiti, abitanti? Ma se siamo 16.000 abitanti, bella cittadina, più tre frazioni. Siamo partiti a novembre. E dobbiamo dire che nelle frazioni in particolare abbiamo trovato una comunità più forte. I gruppi di controllo del vicinato ad oggi sono 5, di cui 3 nelle nostre 3 fazioni, Briana, Cappelletta e Moniego, e un paio in centro storico. Abbiamo Senti, già ti voglio chiedere 170 aderenti. Quello che diceva prima Carlo, no? Cioè, faccio mia la sua perplessità, ma che aria si respira? C'è un clima di partecipazione, di voglia di prendersi a carico il proprio quartiere? O ansia per queste questioni di sicurezza, quindi paura, un clima più di paura? Allora, no. Diciamo che il controllo del vicinato, per come è stato impostato, noi siamo seguiti da un'associazione, dall'associazione del controllo del vicinato, certo. In particolare i nostri vicini di casa sono i referenti di Spinea, in particolare Alberto Gatti, che ringrazio. Vabbè, anche pubblicamente. Li conosciamo benissimo, però ci portano il loro contributo, ci spiegano come funzionano le cose. Devo dire che abbiamo trovato molta, molta rispondenza e soprattutto un po' una specie di recupero della socialità, no? Cioè il vecchio controllo del vicinato, che una volta si faceva tra vicini, ci si informalmente guardava, si faceva informalmente, adesso si fa in veste più organizzata. Ma mi scusi, le volevo chiedere una cosa. A parte che il controllo del vicinato, direi che possiamo ufficialmente dire che è una tradizione veneta, perché sentiamo continuamente, è sempre in Veneto che guardi, è partito dal centro Italia. Ah, perfetto. No, ma in realtà le volevo chiedere un'altra cosa. Le volevo chiedere, questi comitati, che tipo di poteri o di peculiarità? Cioè, è semplicemente che si mettono insieme e decidono di fare il controllo del vicinato, o hanno anche, non so come dire, vanno dai vicini offrendo dei biscottini e intanto cercano di capire che cosa succede? Cioè, stiamo istituzionalizzando i ficcanaso oppure hanno dei poteri? Ma innanzitutto il controllo del vicinato, qui in provincia di Venezia, alcuni comuni, 18 comuni in particolare, hanno firmato un protocollo, un vero e proprio protocollo d'intesa con la prefettura, per cui in questo momento la prefettura di Venezia riconosce i gruppi del controllo di vicinato come, diciamo, gruppi che collaborano alla sorveglianza del territorio. Questo è molto importante. Perfetto. Tant'è che agli incontri che facciamo promozionali, lei avrà sentito prima il sindaco Tosi, no? Sì. Si parla di serate promozionali in cui si presenta il progetto e poi serate di vera e propria formazione in cui si insegna quello che bisogna e soprattutto quello che non bisogna fare. Va bene. Allora, grazie al protocollo con la prefettura, a tutti gli incontri che facciamo di controllo di vicinato abbiamo la presenza direttamente delle forze dell'ordine. E quindi in genere ci vengono a visitare capitani di carabinieri, il comandante locale dei carabinieri. Ma hanno dei poteri in più di un singolo cittadino o no? Non sono poteri, siamo semplicemente dei segnalatori che imparano a diventare segnalatori qualificati. Vi spiego meglio. Se ognuno conosce la propria strada, no? Se c'è qualcosa di strano, un'automobile per esempio che è lì parcheggiata da 3 giorni, certo, non è di nessuno. È possibile fare la segnalazione al 112, ai carabinieri che fanno il controllo, certo. Oppure anche a persone strane che tirano segni strani, gruppi di persone. Ci è capitato l'altro giorno in una frazione una coppia di persone che si atteggiavano da, per capirsi, testimoni di Geova, ma non suonavano in nessuna casa, e quindi c'era un po' il sospetto che potessero essere anche ladri. E come è finita in quel caso, Riccardo? Ladri di Geova. Come è finita in quel caso lì? Mi incuriosisce. In quel caso là è finita che abbiamo segnalato al 112, poi il 112 non è mica obbligato a intervenire. Che cosa fa? Loro fanno il loro lavoro, fanno il loro mestiere. Ma poi quella coppia sospetta che fine ha fatto? Si sono dileguati. Ma è uscita dal territorio. Anche perché si sono convertiti? No, non lo so. Però capisce che, ha fatto un esempio anche un po' stupido, no? Però una coppia di testimoni di Geova o finti testimoni che non sono nelle case probabilmente stanno solamente perustando il territorio per poi magari andare effettivamente a bussare alle varie porte. Riccardo, grazie. Lo scopo del controllo di vicinato è quello di non far venire i ladri, non di catturare. Certo, è un controllo, è un controllo preventivo. Grazie Riccardo da Venezia, grazie. Da Noale, anzi. E in effetti ricordo la notizia che ho detto anche prima, che intervistando gli antesignani di questo controllo del vicinato in piccole cittadine lombarde e del Veneto, insomma, loro dicono che da quando sono in piedi questi controlli in effetti i reati sono diminuite le denunce, un controllo preventivo. E poi ci interessava capire anche che clima, che aria si respira, no? Avete sentito? Quasi un clima di recupero di una certa socialità, voglia di partecipazione, però certo a questi incontri c'è anche magari il capo dei carabinieri, il dirigente in pensione che fa formazione, quindi socialità, ma sempre tenendo presente che di sicurezza si parla, quindi di prevenire furti, atti di vandalismo eccetera eccetera. Quindi è questo un po' il mondo che abbiamo messo in confronto con invece la proposta dei commercianti bolognesi di avere delle guardie armate private in giro per strada, perché certi quartieri, queste proposte molto diverse. Esatto, questa è l'alternativa, bisogna tenere presente che in tante zone di questo si parla e di questo forse c'è bisogno per quelle carenze delle forze dell'ordine pubbliche che ahimè sono il dato di partenza. 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo. C'è un altro piccolo progetto che questa volta viene da Genova, ma è di importazione, perché nasce a Parigi il portiere di via. È un'edicola, ma non si vendono i giornali all'interno. C'è un portiere che cosa fa? Un sacco di cose. Ecco perché abbiamo messo. Fa il portiere per tutta la via. Questo è stupendo. Abbiamo messo Gigrobò, l'eroe, perché in effetti questo i futuri portieri di via che esordiranno a Genova, al quartiere Foce, nelle prossime settimane, perché è un progetto che sta nascendo sulla scia di quello che già accade a Parigi, dovranno fare un sacco di cose, da piccoli lavoretti, aggiustare le tapparelle, accompagnare magari gli anziani, portare la spesa su per le comprare scale, le medicine per chi non può muoversi da casa. E chissà quanti sfoghi di gente che abita in questo quartiere, fra l'altro uno dei più con l'età media più alta d'Europa, quindi quanti anziani che andano lì a fare domande assurde. Quindi deve essere uno psicologo, deve avere forza, deve saper fare dei lavoretti, deve saper usare le nuove tecnologie, perché dovrà smanettare con anche lì WhatsApp eccetera eccetera. Quindi noi abbiamo dedicato Gig una nemica civiltà. Aggiungo solo una cosa su questa notizia di Genova, che è il progetto è sperimentale e lo pagherà in parte il comune e in parte la Fondazione San Paolo, e poi l'idea è quella invece di suddividere le spese fra i vari condomini e i vari condomini, in realtà, perché sono più condomini, non è il portiere di un solo condominio ma è il portiere di un'intera strada. Quindi mi sembra bello anche questa cosa, che si sperimentalmente verrà pagato da qualcun altro, e poi se la cosa funziona, dividendo le spese per tutta una via, non sarà una grossa spesa ma potrebbe essere un ottimo risultato. Antonio da Roma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei raccontarvi questo. Londra, anni 70, ristorante di lusso offerto da amici, mi hanno portato gli spaghetti in bianco con la marmellata di ciliegie sopra. È una cosa tremenda. Immagino la mestizia proprio. Cioè, una cosa terribile. Che hai fatto? Tanto, sei alzato, te ne sei andato? Glieli avrei tirati in non faccia, l'ho potuto giusto. Fare perché ero ospite. Diciamo che ho cercato di mangiare un paio di forchettate della pasta senza la marmellata, ma è una cosa tremenda. Ma il problema è che la marmellata fosse di ciliegie, perché se fosse o no? No, il problema era che c'era la marmellata. Ma era un dessert per loro o era... No, era un primo. Era un primo. Era un primo. Era praticamente, non l'ho ordinato io ero ospite di amici e mi hanno portato in questo ristorante a detta di questi amici di lusso a Leicester Square, e il primo era questo. Una cosa veramente tremenda. Comunque guardate, in quel periodo Londra era strana, perché stessi anni, ristorante indiano, sì. Mi portano una terrina con delle olive molto piccole, cotte bene, e poi scopro che sono occhi di capra. Occhi di capra, occhi di capra. Non li ho più mangiati. Anche lì ospite di amici che mi hanno portato, cioè adesso questo è un piatto prelibato costosissimo, tra le altre cose. Forse si deve fare delle domande su che tipo di amici ha, però, perché iniziamo a sospettare 70, questo. Anni 70, cioè avevo 20 anni. Va bene, Antonio. No, in realtà siamo molto contenti di quello che ci ha raccontato, anche perché giustamente ci parla degli anni 70, invece spesso quando si danno queste notizie sembra una moda del momento, invece già negli anni 70 a Londra si mangiavano gli spaghetti con la marmellata di ciliegie. E noi che normalmente siamo per tutti si può fare di questo mondo, questa volta sulla pizza con l'ananas siamo con il presidente islandese e diciamo no, non si può fare. È così per una volta. Ma io non sono Maria così Teresa. Contrario però, ci tengo a sottolineare. Maria Teresa da Pescara, buongiorno, benvenuta. Vi chiediamo in realtà di raccontarci i vostri non si può fare, le ricette assurde che bisognerebbe vietare, forse addirittura per legge. Scherziamo naturalmente, Maria Teresa, se c'è bisogno di specificarlo, prego. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Sì, da parte mia, ecco, quello che c'è da vietare è questo scandalo, ecco, quindi non capisco il perché. Viviamo in un mondo globalizzato, quindi perché scandalizzarci di qualcosa che è semplicemente in fondo diverso da noi, è solo culturale. Secondo me è un classico il caffè, il nostro espresso che diventa un qualcosa di quasi sacro nel momento in cui usciamo dall'Italia, orribile quello che bevono gli altri, un filino più allungato piuttosto che molto più allungato quello americano, che alla fine è anche una miscela diversa. Cioè tu ci vuoi educare, come dire, a dei gusti più allargati. Ma non è educare, è solo un qualcosa di diverso al nostro. Anche noi, se fossimo vissuti in una nazione diversa, avremmo trovato normale il caffè lungo. Ma secondo me però non è questa la questione. La questione semmai è scriverci espresso italiano e poi invece darti una broda, perché io sono uno che beve tranquillissimamente il caffè americano, mi piace moltissimo, non è un problema. Come l'ascoltatore che ci ha appena chiamato, che viene venduto come primo italiano in un ristorante di lusso londinese gli spaghetti con la marmellata di ciliegie. Certo, ma sicuramente anche noi quando andiamo al cinese, ad esempio, abbiamo dei cibi passati per cinese che in Cina saranno cucinati in modo completamente diverso, quindi alla fine sono una maniera commerciale, lo avvicinano il più possibile al gusto del locale. Il cibo italiano viene avvicinato il più possibile al gusto dell'inglese per essere vendibile lì da loro. Un classico è la pizza, probabilmente la nostra classica margherita, banale, semplice, buonissima margherita, probabilmente ad esempio negli Stati Uniti non venderebbe e quindi viene avvicinata di più al loro gusto. Sì, però avvicinarsi alla matriciana con la marmellata di ciliegie forse c'è un problema, no? C'è un problema cambiamo proprio... Cambiamo i nomi, però ad esempio la pizza con l'ananas è buonissima, non chiamiamola pizza, chiamiamola diversamente, tu cuciniamola l'hai mangiata. Comunque. Vedi, Maria Teresa, noi ti ringraziamo, e anzi io personalmente sono d'accordissimo con te, anzi apriamoci a tutti i gusti del mondo. Stamattina in realtà volevamo un po' stuzzicarvi per vedere un po' qual è la frontiera del cibo anche da questo punto di vista. Il caso della pizza con l'ananas è uno, ce ne sono altri, chiaramente è anche molto soggettivo. soggettivo, a me piace, certo, a te non piace, però volevamo stuzzicarvi sulla vostra indignazione per il cibo, per i limiti del cibo, partendo dalla pizza che si è patrimonio dell'UNESCO, si sta discutendo che diventi patrimonio dell'umanità. Possiamo consentire che si faccia la pizza con l'ananas? Ma si chiama pizza vaiana, no? Certo. 800 24 00 24, dopo il giornale radio torniamo, con noi anche Joel Dix. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Introduciamo con questa ormai celebre Happy di Pharrell Williams. Siamo contenti che sia con noi Joel Dix. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Happy, happy, perché è bene. In tour con uno spettacolo. Molto, molto happy. Ecco, sì, si sente dal tono di voce che ti abbiamo svegliato, che sei molto happy a quest'ora. Sì, sì, molto, molto happy. Allora, sei in tour con uno spettacolo che si chiama Vorrei essere figlio di un uomo felice. Uno spettacolo che adesso ci racconterai un po', nel quale noi abbiamo intravisto quasi un invito a un si può fare, un po' nel rapporto tra padri e figli. Allora questa cosa ci ha stuzzicato e non potevamo non lasciarcela sfuggire. Male, temevo che mi chiedesse di che cosa ho mangiato di strano. Anche, allora, assolutamente. Vabbè, allora partiamo subito di lì. Che cosa hai mangiato di strano in vita tua, visto che lo chiediamo agli ascoltatori stamattina? Pizza con l'ananas. No, questo lo lascio a non so chi, ma no, io quando sono stato in Ghana e Costa d'Avorio, un viaggio molto avventuroso che ho fatto 20 anni fa, sì? Lungo le strade vendevano degli spiedini non meglio identificati, e poi abbiamo capito che erano i grass cutter, che sono questi topoloni, sono dei grandi topoloni che ci sono lì nelle campagne, che loro arrostiscono e che sono squisiti. Abbiamo capito dopo che no, cioè se c'è un punto oltre il quale non vuoi andare, cose, diciamo, ah, buono questo vitello, buono questo, sarà manzo, sarà la peggio, sarà capra, no? Era topo, però insomma. E com'è andata la digestione poi? È andata? Chi se lo ricorda? No, devo essere così dettagliato? No, cioè sei ancora vivo, sei ancora qua, quindi è andata. Sì, vabbè. Però no, il topolone è un nome che avevamo dato noi, perché insomma, secondo forse erano dei, ma non saprei. Comunque la pantegana in assoluto non è negativa. Esatto, negativa. Ma noi però ricordiamo, sì, anche i nostri ascoltatori che stiamo chiedendo che ci chiamino per dirci di ricette molto strane. Non è tanto il fatto di mangiare cose di altre culture, nel senso che anche tutto il mondo degli insetti pare che sia veramente il futuro, perché sono pieni di proteine, pare che siano pure buoni. Non è questa per noi la questione, non è il fatto che ci sono altre culture che mangiano cose diverse da noi, ma è il fatto di mischiare, spesso è colpa degli chef, no? Esattamente gli esempi che abbiamo avuto prima, di qualcuno che pensa che sia una buona idea fare una pasta alla matriciana modificata con della marmellata di ciliegie, troppo, perché quello è Masterchef, ha fatto male a qualcuno, esatto, gli ha dato la testa. Esatto. Molto, però male, molto male. Comunque lo spiedone di topolone ce lo, senti, segniamo. Com'è che si chiama? Perché se mi capita di andare in Ghana te lo ricordo. Comunque si chiama si vede perché ci sono dei cartelli, sì, lungo le strade che segnalano la presenza di questi animaloni che possono attraversare la strada creando dei problemi. E poi te lo ritrovi arrostito. E avevamo grass cutter, che significa mangiatori, tagliatori di erba, insomma. Sì. Si vede la foto, il disegno. Noi abbiamo, no, abbiamo il, di solito abbiamo il, cos'è, la gazzella, che poi non ce n'è di gazzella. Capriolo, il capriolo in montagna. Capriolo, sì, che salta, che poi, successo di recente in Liguria, è successo che ci sono stati dei caprioli che sono passati sull'autostrada. Sì, anche dei cinghiali. E invece lì topoloni. Comunque presto ci sarà anche il latte di Pantegana a chilometri zero, perché viene dalla fogna di casa tua, quindi insomma, quello è comodissimo, più fresco di così è proprio, cioè, io, appena, ragazzi, munto, ve lo dico, mi sono pentito di aver fatto questo gioco. Adesso mi alzo e me ne vado, perché non so se ce la faccio arrivare alla fine della puntata con queste robe qua. Allora, parliamo anche un po' del tuo spettacolo, va? Vorrei essere figlio di un uomo di un uomo felice. Perché hai scelto questo titolo, che poi ha anche un sottotitolo che riguarda l'Odissea, e di cosa parla sto spettacolo, Gioele? Beh, diciamo che la frase è esattamente la traduzione letterale di una frase che dice Telemaco, interrogato dalla dea Atena, che scende a incontrarlo nell'isola di Itaca, gli chiede se sa chi è suo padre, l'importanza di questo eroe, che il figlio non l'ha conosciuto, il padre è partito quando lui era appena nato, è partito per la guerra di Troia e ancora non è tornato dopo quasi 20 anni. E allora lui dice: non so, mi dicono che questo sia mio padre, ma quello che so è che vorrei essere figlio di un uomo felice, mentre mi sembra che il mio, a quel che mi dicono, sia il più infelice degli uomini. Mi è sembrata una frase così, così bella, con una quasi programmatica. Sì. Una sorta di progetto, o forse più realisticamente di una speranza. Quanto sia importante per tutti noi, più o meno ognuno a seconda della propria biografia, scoprire il perché della eventuale, spesso presente, infelicità dei propri padri. Cosa di cui tra l'altro spesso... Il benessere reciproco, il benessere fosse reciproco, cioè certo. Non solo... siamo felici come padri di avere dei figli che sono sereni, che avranno un buon futuro, ma anche spesso, indagando sul passato dei nostri padri, ce ne diamo conto che... C'è un'età in cui si arriva a questo, perché spesso fino a una certa età uno se ne frega proprio di pensare come erano i genitori, ma chi se ne frega cosa... E invece poi è un passaggio importante. Tu in questo spettacolo, naturalmente poi con anche consueta ironia, rivolto ai giovani, ma diretto ai padri, no? In qualche modo li esorti a fare i padri, poi, no? A essere presenti, a educare anche con autorevolezza, e fai l'esempio dei bambini nei ristoranti. Non so se lo fai nello spettacolo o se, parlando dello spettacolo, i bambini nei ristoranti. Assolutamente. Cosa di cui noi sappiamo bene, perché... ben informati. Lo spettacolo è nato e ha come filo conduttore letterario i primi 4 canti dell'Odissea, dove per l'appunto si racconta del viaggio. Non è ancora presente Odisseo, Ulisse è ancora assente, come nei grandi film. Protagonista entra dopo un po', e i primi 4 canti raccontano un viaggio più piccolo, ma meno avventuroso, ma forse altrettanto importante, che è il viaggio che fa il figlio di Ulisse alla ricerca del padre. In realtà è un viaggio interiore, alla ricerca di se stesso, della propria identità, il tentativo di capire l'eredità che ha e anche di meritarla. Questo spunto porta a parlare di tante cose, fra le quali anche l'assenza dei padri, perché i padri a volte ci sono allo stesso, ma sono assenti, è ancora peggio, pesa ancora di più quando un padre è vacante, insomma. E uno se ne accorge all'improvviso al ristorante, no? Anche perché spesso i padri vogliono fare i migliori amici dei loro figli, questo è un po' il problema della loro assenza, dell'assenza dei maestri. Sì, esatto, li mollano nella realtà. Io ricordo quando ero bimbo, io andare al ristorante era un incubo, perché dovevo stare fermo, zitto, e mangiare quello che ordinavano i miei, perché di ordinare non se ne parlava, tanto dovevo mangiare tutto fino all'ultimo boccone, perché c'erano dei bambini. Certo, più o meno quello che accadeva a tutti noi quando eravamo piccolini. Nell'Africa, che morivano di fame, e quindi io ero costretto a mangiare, perché pensavo, ma facciamo di venire qui questi bambini, gli do io la parte che... Poi... Sì, gliela do io volentieri, perché devo... Io non la voglio. Già era un'ottima risposta la tua, perché comunque non è che hai detto spediamoglielo a casa, ovvero aiutiamoli a casa loro, ma invitiamoli qui, che così mangino loro questa roba, che io non c'ho più fame. Sì, adesso io questa sfumatura non l'avevo colta, avendo 6 anni, non avevo ben idea dei migratori, però insomma, diciamo che ero però in generale i bambini adesso sono, non tutti naturalmente, però di noti ci sono dei bambini al ristorante, nei luoghi pubblici in generale, che sono, ai quali è concesso di comportarsi come se fossero da qualunque parte. Tanto è vero che cito proprio una scena più o meno che ho vissuto in un ristorante di Bologna dove c'era il carrello dei bolliti. Questo bambino ha visto il carrello dei bolliti, è un mezzo di locomozione mai visto prima, e ha desiderato di poterlo guidare. Di guidarlo, certo. Sì, si è salito sopra, ha messo un piede nella mostarda, un piede nella salsa verde, e poi abbiamo capito che puntava in realtà al lampadario, che era un lampadario piuttosto basso, e ha tentato di appendersi. In questo delirio il padre lo guardava estasiato. Come bravo. Mi ha guardato e mi ha detto: e questo è niente, vedete quello che fa a casa. Era talmente entusiasta. Ecco, cioè, da arrestarli tutti e due, il padre soprattutto. Gioele, no, Dixi, dobbiamo fermarci per una pausa sul traffico. Poi, se ti va, rispolveriamo un attimo anche il tuo automobilista in strato nero, perché di questi tempi è durissima da tanti punti di vista. Traffico 800 24 00 24. Eccoci qua, di nuovo in diretta, 9:19 minuti. Di nuovo buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E buongiorno di nuovo a Gioele Dix. Caro Gioele, in turco, lo ripetiamo. Dobbiamo ricominciare con questo buongiorno, ricominciamo tutto. Ricominciamo tutto identico. Sì, sempre, è ciclico, la radio è così, si va avanti così all'infinito. Sì, perché la gente, alcuni sono arrivati adesso. Adesso, esatto. Per riparlare dei topoloni. Esatto. Lo rifacciamo tutto. È un'odissea, no, giustamente. Ti do una notizia, perché ne abbiamo parlato settimana scorsa. Vedi che noi siamo allineati con questo ristoratore di Padova che fa lo sconto alle persone che nel suo ristorante portano i figli che si dimostrano essere ben educati. Ah, vedi che qualcosa si muove. Probabilmente ha avuto anche lui qualche pattinatore sul suo carrello dei bolliti. Sì, assolutamente. Sì, sì. Ma io ho visto delle cose assurde. Per esempio, un'altra volta ho visto questa famiglia che è arrivata con due bambini, hanno steso per terra uno di quei teli dove ci sono, e hanno messo tutti i giocattoli e niente, i bambini hanno giocato, il che poteva anche sembrare un'idea, ma insomma, però, dire, nel ristorante uno va per altre cose. Il tentativo di educare le persone, i figli, a comportarsi in maniera diversa a seconda dei luoghi in cui si è, cioè è uno degli rudimenti, no, dell'educazione, del modo di affrontare il mondo. Che oggi sembra una cosa così antica, di non dare, no? Del tu a tutti, per esempio. Io non, questa idea che si deve dare sempre del tu a tutti. E io ricordo che con mio nonno bisognava, non solo, insomma, non dico del voi, perché non eravamo questo, ma chiedere il permesso prima di parlargli. E, ora, magari sono degli eccessi, però insomma, uno imparava anche un po' i modi, che non ci si può comportare nello stesso modo con tutti e ovunque. Senti, Gioele Dix, tra le tante innumerevoli cose che fai, sei veramente un fucina di idee. È sorprendente. No, c'è un importante appuntamento che riguarda Primo Levi, a 30 anni dalla scomparsa. Inauguri un ciclo di letture a Torino, leggendo anche dei passaggi di Così fu Auschwitz, La tregua, Se questo è un uomo. A 30 anni dalla morte di Primo Levi, forse ci sono sicuramente ragazzi sono nati che lui era già morto, e quindi in qualche modo che questo suo importantissimo messaggio già indiretto, già veicolato, come si può affrontare oggi, soprattutto con dei ragazzi, questa questione qua? È spinoso il fatto. Se questo è un uomo è diventato probabilmente ormai un classico, si può considerarlo, viene letto nelle scuole, e questo è un bene naturalmente, però devo dire che in questa lettura che farò mercoledì a Torino ho voluto includere anche un brano dai Sommersi ai Salvati, che è il libro che Primo Levi scrisse negli anni Ottanta, poco prima di morire, e nel quale tornò sull'argomento consapevole che c'era bisogno di rinfrescare la memoria. Ti sentiamo quasi come se tu ti sentiamo più fra i sommersi che fra i salvati. Tipo sì, non mi senti ora? Ecco, adesso bene, adesso bene. Che è successo? Mi sono forse... Ma cosa avete perso? Devo ricominciare dai topoloni? Dai topoloni, no. Dai sommersi salvati, Primo Levi. Dicevo che Primo Levi tornò sull'argomento negli anni Ottanta, consapevole che c'era bisogno di rinfrescare la memoria sull'argomento, e perché si crea poi una sorta di abitudine all'orrore, e quindi lui si interroga in questo libro su che cos'è la memoria e quanto si debba lavorare per tenerla viva, anche in assenza dei testimoni, perché lui era comunque consapevole che i testimoni prima o poi se ne vanno, e quindi occorre un passaggio di testimone, per l'appunto, e questo è un po' il tema forte di queste letture, rinfrescare questa memoria, sapendo che Primo Levi è stato il primo e forse l'unico, almeno in Italia, capace di raccontare ciò che è difficile da raccontare. Anche di questo lui, su questo si interroga, cioè quanto sia difficile raccontare. E dice una cosa all'inizio dei sommersi e salvati, dice: gli stessi nazisti erano in qualche modo consapevoli che noi avremmo avuto difficoltà a farci credere. E ci dicevano, quasi come sfida, dice: guarda, anche se sopravviverete e racconterete ciò che vi abbiamo fatto, non vi crederanno. Quindi abbiamo già vinto noi. Bisogna provare a non far vincere nel tempo lungo, perché spesso è proprio il tempo lungo quello che dà la vittoria a chi fa del male. E c'è la speranza... C'è la speranza, Gioele, che a queste letture, a questo spettacolo, ci siano dei ragazzi effettivamente coi quali poter dialogare su questo, o no? Sì, beh, ma certo. Io devo dire che ho scritto anche un libro qualche anno fa, mettendo insieme le memorie di mio padre sulle peripezie della guerra. Certo. E, è stato scritto, l'ho scritto... dando appunto voce a lui ragazzino, e questa operazione ha fatto sì che mi abbiano chiamato in tantissime scuole. Naturalmente sono gli insegnanti, i presidi a prendere l'iniziativa, ma la soddisfazione è di scoprire che molti giovani, non tutti, non è che si deve neanche generalizzare, però molti sono attenti, certo, sono interessati. Te l'ho detto, molto di più di quello che noi pensiamo. Te l'ho chiesto proprio per questo, perché la tua forza è avere una capacità di un linguaggio divertente, ironico, leggero, però poi di andare anche a scandagliare temi molto importanti e per tutti noi. Importante, per esempio, è il tema delle palme a Milano, no? È molto importante questo tema qua, visto che tu sei anche un cultore della tradizione, per esempio, l'abbiamo scoperto anche questa mattina, riscoperto a teatro. Sulla storia delle palme a Milano hai qualcosa da dire? Perché per molti non fa parte della nostra tradizione. Tu sei un milanese doc? Sì, ne ho sentito parlare, non sono ancora andato a vederle. Quindi non so se sono... Bisogna sbrigarsi prima che le brucino tutte. Esatto. Ma io non sono contrario, non so quanto resisteranno, più che altro ai piccioni che sono capaci di ammazzare tutto. Per cui che sono autoctoni ma molto più pericolosi delle palme, direi. Assolutamente, sì, per cui le stesse palme si renderanno conto che cosa significa, lo sanno tutti i monumenti, no? Infatti c'era un bellissimo racconto di Manganelli che parlava di questo monumento che era così dispiaciuto di essere soprattutto sommerso in compagnia dei piccioni. Certo. Mi sembra un'interessante lettura. Vedi che quindi stai dicendo che forse le palme saranno loro ad andarsene da sole. Sì, bravo. Perfetto. Infatti, non sono così pronto a quest'ora, però la battuta è questa. Saranno le palme a andarsene via, lasciando con un palmo di naso dire: no, questa non funziona, vabbè, ci lavorerò sopra. Va bene, Gioele Dix, grazie. Grazie mille, ricordare... io volevo farti i complimenti. Sì. In realtà, per questa questione dello spettacolo, sì, vorrei essere figlio di un uomo felice, perché è un tema che mi sta molto a cuore, avendo io scritto una lettera a mio padre, e in realtà prendendo esattamente questo punto di vista, ovvero cercando di farsi le domande su come stavano i nostri padri e chiedendosi se appunto e anche dove sono andati a finire. Quindi mi sembra anche molto bello il fatto di rivedere l'Odissea occupandosi dei primi quattro canti, dei quali di solito non si occupa nessuno, che sono esattamente quelli di Telemaco, ovvero che forse siamo tutti noi che stiamo in aspettativa del ritorno dei padri. Sì, è esattamente così. Tra l'altro nello spettacolo metto anche citazioni di altri scrittori, per esempio Valerio Magrelli ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Geologia di un padre, nel quale racconta gli ultimi tempi di suo padre e questa relazione complicata ma decisiva. Paul Auster, che ha scritto un libro che si chiama Ho pensato che mio padre fosse Dio, che in realtà moltissimi figli si accorgono dell'importanza dei propri padri, magari un po' troppo tardi, magari al limite, però non è mai tardi, insomma, per riguardarsi un po' dentro, insomma, perché questo alla fine è il fatto. Potete cogliere l'occasione per andare a vedere lo spettacolo Gioia Dix. Vogliamo ricordare anche la prossima data, dove sarà? La prossima settimana, anzi fra due settimane, Torino al Teatro Colosseo. Perfetto. E poi a Camogli, nel teatro inaugurato da poco, bellissimo teatro, gemello del teatro... il Teatro Gustavo Modena di San Pier d'Arena, e poi sarò ancora in Piemonte, in Toscana, insomma. E poi insomma, andatevele a cercare le prossime date, abbiamo detto. A cercare, perché io veramente non mi ricordo niente. È pur sempre sabato mattina per tutti. Grazie. Dovevate dire che dovevo fare anche questo spottone, è vero. No, ma grazie, ci tenevamo. Si può dire in bocca al lupo, fratello Atlanti, no? Come si dice? Si dice merda, lo dico io, quindi a posto. Ciao Gioele, sì, grazie. Sì. Grazie a voi. Chiamatemi quando volete. Grazie, va bene. 800 24 00 24, ascoltatori già in linea anche per fare da giurati ai progetti di crowdfunding che tra poco saranno con noi come sempre ogni sabato mattina. Abbiamo già qualcuno? Sì. Abbiamo chi abbiamo? Francesca Carla che chiama dalla provincia di Monza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Ho ascoltato, è un pezzo che ascolto la vostra trasmissione qua al mattino, prima quando si parlava dei cibi particolari, no? Sì, sì. E anche adesso Gioele Dix che è grandissimo e forte, anche di quello che ha parlato prima, dei bambini, dei ristoranti, del comportamento, tutto, dei tutto, bambini, va bene, dell'educazione. Ma hai chiamato per fare il sommario della puntata o volevi... No. Cosa devo parlare io? Di quello che vuole, non lo so. Allora, io parlo di una cosa, no? Sì. Negli anni 60 andavo sempre in campagna, nell'Astigiano, Cuneese, e miei zii avevano una grandissima cascina, no? E lì si mangiava in modo abbastanza, diciamo, giusto, normale, si faceva panna in casa, minestrone, e mi ricordo che una sera mi avevano fatto mangiare, come mangiavano anche loro, la polenta, quella un po' solida, no? Che si tagliava con il filo, loro dicevano il filo di cotone, certo. E con la marmellata di uva, che loro la chiamavano la mostarda. Ma è un piatto squisito a sentirlo così? Ma il salato, il dolce, io ho trovato un orrore. Un orrore. Per me, ero una ragazzina, ho detto ma la polenta è salata, quella roba lì è dolce, ma va bene. Ma la polenta con lo zucchero si mangia, la polenta fritta con lo zucchero è un piatto, nel senso che la polenta lo si usa un po' come pane, come si mangia pane e marmellata, direi che polenta e marmellata, a me sembra buonissimo, però lei l'ha assaggiata, quindi... Non piacque, ma a poi... A me piaceva tanto con la bagna, quando c'era la bagna, no? Sugo, loro la bagna cauda, certo. Un po' di spezzatino con perché tutto Francesca il suo, Carla non si sente, polenta, non, felicità. Sì, non si sente mai piemontese. Francesca Carla, sì, non si sente mai. Sono proprio della Valle di Susa. E poi a proposito di educazione, posso dire una cosa? Sì. Ecco, io mi ricordo proprio lì dai miei nonni e zii, fra l'altro, avevano avuto 10 figli, 5 maschi e 5 femmine. Avevano una tecnica, prima un maschio e poi una femmina, no? E io sono stata prima nipote. E mi ricordo quando era ora di mettersi a tavola. Aspettavano sempre mio nonno per cominciare a mangiare, magari mio nonno si attardava, era di là nella stalla ancora, allora pare, perché non si poteva incominciare a mangiare se per primo non incominciava lui. E quindi avete sempre mangiato roba fredda, immagino. No, mia nonna era bravissima, teneva sempre in caldo tutto il minestrone con i tagliarini fatti in casa tutti i giorni, minestrone con i tagliarini fatti tutti i giorni freschi in casa. Ma Buonissimo, mi sembra stupendo. Grazie mille. Altri posso tempi. Dire, no, Francesca, fermati un attimo perché abbiamo anche un altro ascoltatore. Resta però con noi se vuoi fare da giurato per Cloud Me Up. Umberto da Torino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, volevo dare il mio contributo sui disastri culinari. Eccolo, vai. Insomma, un anno fa abbiamo invitato un amico che avevamo conosciuto in India, un indiano. Sì. Io sono di Genova e meglio che poteva andargli per noi erano i panzotti al sugo di noci, che se qualcuno lo sa è un piatto piuttosto delicato. Squisito. Cos'è i panzotti? I panzotti. Un tipo di pasta? Sì. Il panzotto è una pasta ripiena. Una pasta ripiena con dentro delle erbe come potrebbero essere bietole, prebugium, insomma, sì. Delle erbe, comunque è una di magro, specie di raviolo. Un di magro. Sì. E quando ne ha assaggiati due era molto entusiasta e ha detto molto buono, ecco, però se si potesse avere un po' di ketchup sopra sarebbe no, ketchup sul panzotto no. Ci sono stati a quel punto io e mia moglie, abbiamo passato dei momenti di terrore misto a panico. insomma gli abbiamo spiegato che gliel'avete fatto fare o no? Il sugo poteva andare bene così. Quindi non gliel'avete permesso? No, no, assolutamente. È giusto. C'è un limite. C'è un limite. Il ketchup sui panzotti non si può mettere. Era esattamente questo che vi chiedevamo stamattina. Umberto, anche tu, se vuoi, resta con noi. 800 24 00 24. Torniamo tra poco con gli ascoltatori e con i progetti che cercano il nostro aiuto con il crowdfunding. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. È il momento di Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Vi presentiamo anche oggi due progetti scelti tra tutti quelli presenti su Apple, sulla piattaforma Apple. Li mettiamo uno contro l'altro per giocare, ma per conquistare il voto dei nostri giurati scelti tra gli ascoltatori. Che sono, li abbiamo già sentiti, Francesca, Carla da Monza e Umberto da Torino. Cari ascoltatori, restate lì, belli concentrati. Sono polenta con marmellata. Bravo. E panzotti col ketchup, così per riconoscerli anche. Esatto, e adesso cominciamo a presentare i due progetti. Sono un progetto tecnologico e l'altro teatrale, a sfondo sociale. Iniziamo, vai. Allora, il primo progetto è l'integrazione culturale è un gioco da ragazzi, si chiama così, è il titolo infatti scelto dal progetto di Fondazione Teatro Piemonte Europa, nato per dare vita a un corso gratuito di lingua italiana di tecniche teatrali e cinematografiche rivolto ai giovani cittadini stranieri. Il laboratorio si terrà negli spazi del Teatro Astra a Torino, appunto, e coinvolgerà ragazzi tra i 16 e i 20 anni che impareranno l'italiano avvicinandosi alla cultura. Per realizzarlo servono 10.000 euro. Ce ne parla Massimiliano De Serio, che è il regista teatrale e anche uno dei promotori di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Massimiliano, un minuto, poco più di tempo per spiegare perché è possibile sostenere questo progetto. Ma innanzitutto perché, come dice appunto lo slogan che abbiamo utilizzato, è un gioco da ragazzi, imparare l'italiano, perché per giocare innanzitutto, attraverso il gioco si può imparare. In questo momento ho una figlia che ha appena compiuto un anno e che giocando sta imparando tantissime cose. Noi crediamo che attraverso l'azione ludica si possa davvero imparare. E poi è un gioco da ragazzi, perché i ragazzi sono l'obiettivo di questo corso, i ragazzi che costituiranno il nostro futuro, la nostra Italia di un domani, potranno attraverso le tecniche del teatro e del cinema, coordinati da un gruppo di ragazzi del Piccolo Cinema, una società di mutuo soccorso cinematografico che si basa proprio sullo scambio di esperienze cinematografiche per imparare a stare nel mondo. Ecco, crediamo che siano due termini importanti su cui ruota tutto il progetto e chiediamo naturalmente alle persone di fare questo gesto di mutuo soccorso, di aiutarci. Bravo Massimiliano, anche perché sei stato nei tempi, anzi anche prima del gong. È un regista. Se non ha la gestione dei tempi, è molto giusto. Complimenti. Certo. Senti, ma avete già esperienze di laboratori anche con ragazzi stranieri? Insomma, è davvero un gioco da ragazzi l'integrazione? Come si svolgono questi laboratori? Sì, esperienze ne abbiamo diverse, soprattutto io e mio fratello saremo in due poi in realtà a coordinare il progetto, Gianluca e Massimiliano, appunto. Siamo due gemelli che abbiamo sempre lavorato soprattutto con il cinema e con il teatro, a contatto con un quartiere di Torino, quello sì, della periferia nord, dove vivono tanti extracomunitari, tanti ragazzi di origine straniera, di seconda generazione, e anche alcuni appena arrivati. Abbiamo fatto diversi film con protagonisti, i ragazzi stessi, che mettono in gioco le loro storie di vita attraverso il cinema e attraverso questa specie di lanterna magica, no? Del racconto cinematografico. Certo, quindi avete esperienza da vendere su questo, sì, in questo sì, settore, e insomma sappiamo quanto c'è bisogno, come il pane, di iniziative come queste. Grazie Massimiliano, resta lì naturalmente, e anche gli ascoltatori giurati Francesca Carla e Umberto da Torino, rimanete concentrati perché secondo dobbiamo progetto. Passare al secondo progetto. Vai. Allora, la seconda campagna che vi proponiamo dalla piattaforma di Apple si chiama iSet Technology e nasce per sostenere lo sviluppo di iSet. Si tratta di un kit che automatizza e rende intelligenti le attrezzature, non ce la posso fare, per videomaker. Questo kit è composto da una serie di componenti stampabili tutti in 3D in qualsiasi Fab Lab, che permetteranno così ai videomaker di gestire luci e camere direttamente dal proprio smartphone. Per lo sviluppo di questo progetto servono 10.000 euro, ce ne parla Ilaria Chiesa, ideatrice. Buongiorno Ilaria. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Anche a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché è possibile sostenere questo progetto iSet Technology. Allora, perché sostenere iSet? Provate a mettervi nei panni dei professionisti del settore che ogni tot di tempo devono necessariamente acquistare nuove attrezzature per stare al passo con le innovazioni. Si trovano a dover fronteggiare delle spese molto molto elevate. iSet risolve esattamente questo problema. Permette ai professionisti di rinnovare le attrezzature già in loro possesso. In che modo? I professionisti prendono i nostri dispositivi, li posizionano sulle loro attrezzature, i dispositivi si connettono via Wi-Fi e Bluetooth alla nostra applicazione. Il professionista può così controllare direttamente da lì il suo set, che diventa intelligente e innovativo a fronte di una spesa contenuta. Questa è più o meno l'ottica di iSet. Ma è già finita? Ancora più veloce? No, però io non ho. Ce lo spieghi con un esempio proprio terra a terra? Perché io quando inizio a dire le tecnologie mi perdo. Cioè, nella pratica, professionisti che fanno che cosa e che hanno bisogno di che cosa? Come se lo stessi spiegando alla tua nonna, che siamo noi poi. Sì. Il nostro target di riferimento sono i videomaker. Sì. Le attrezzature dei videomaker consistono. Le telecamere. Esatto, le telecamere, le luci di un set, eventuali slider per fare dei movimenti di camera. Certo, io ho una vecchia telecamera, quindi come faccio ad aggiornarla? Però non devi aggiornare la tua telecamera, semplicemente acquisti il nostro dispositivo, sì, lo connetti alla tua telecamera. Il dispositivo, oltre a connettersi alla tua telecamera via cavo, perché sei vecchissima, oppure se di quelle un po' più tecnologiche via Wi-Fi, sì, questo nostro dispositivo si connette alla nostra applicazione. E dalla nostra applicazione puoi gestire le tue attrezzature. Al posto di comprare una telecamera molto molto più costosa, che puoi acquistare questi dispositivi low cost. Questa perfetto, è, diciamo, che sono stampabili tra l'altro in 3D, in vero? 3D, esattamente. Perfetto. Ne abbiamo pensati a diverse versioni, alcune più professionali, una per esempio stampabile in 3D, dove i ragazzi possono mettersi lì e tramite i nostri video tutorial montarli direttamente loro. Allora, cari ascoltatori, giurati, sono due mondi per certi aspetti in contatto, hanno a che fare tutti e due con l'espressione, col cinema, eccetera, però abbiamo teatro come luogo di integrazione, questo set di tecnologie per videomaker. Cara Francesca, Carla, quale dei due progetti ti ha convinto di più e saresti disposta a sostenere? Ma io, a dire il vero, tutti e due veramente mi sembrano ottimi, mi sembrano cuore di mamma, però, vedi, non ce la fanno a dire sceglierne uno, sì, allora brava. Scelgo quello che mi ha colpito di più, è quello del cinema, quella dei ragazzi, sì, no? Diamo una mano a questi videomaker, anche la lingua italiana e tutte queste cose qua, questo mi colpisce di più. Va bene Francesca, va bene, forse perché non sono molto tecnologica. Brava. Quindi capisco di meno, la mia ignoranza anche. Va bene, e quindi Francesca vota per il progetto iSet Technology. Invece Umberto da Torino, quale dei due progetti scegli? Ma io forse prediligo l'altro per una questione di tecnologia, di stampa 3D, che la vedo veramente il futuro, sia a livello industriale che, diciamo, come possibile sbocco per altri lavori, insomma, okay. Quindi iSet Technology, sì. Giusto? Ma invece ho sbagliato, no, invece sì, Francesca ha parlato dell'integrazione culturale, un gioco da ragazzi, perché parlava di cinema, ragazzi stranieri e l'integrazione, quindi pareggiano i nostri due. Non è così grave, perché come sapete non è che si vince, entrambi i progetti li trovate sulla piattaforma di Apple, non è che viene eliminato il progetto che perde, però siamo di fronte a un pareggio che ci va benissimo così, quindi Massimiliano De Serio e Ilaria Chiesa, grazie per essere stati con noi. Complimenti a tutte e due. Crowd Me Up torna la settimana prossima e i dettagli di questi progetti, se vi hanno convinto e volete andare a sostenerli, li trovate su Apple, trovate anche sulla pagina Si Può Fare nel sito di Radio 24 tutte le informazioni. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Adesso c'è una notizia che abbiamo voluto introdurre così, con un alleluia. Finalmente si sono chiusi veramente tutti gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia. Una lunga campagna che nasce. Stefano Cecconi, coordinatore della campagna Stop OPG. Quando nasce questa campagna e poi la legge, eccetera, eccetera? Vogliamo fare un passo indietro? Buongiorno, sì. Buongiorno. Tra il 2010 e il 2011, in concomitanza con la indagine promossa dalla Commissione Sanità del Senato, presieduta allora da Ignazio Marino. Altri tempi, altri incarichi. Certo, però quella fu un'operazione che gli va riconosciuta. Importante. Così, assolutamente. Sì, sì. Questa settimana però possiamo dirlo, Cecconi, abbiamo in qualche modo celebrato il fatto che gli ultimi pazienti ricoverati in un OPG verranno trasferiti, e quindi adesso si apre veramente una nuova pagina, si chiude questa pagina buia, oscura per la salute mentale in Italia, e se ne apre un'altra. Sì, è una fase completamente nuova, perché passiamo dalla logica manicomiale tipica degli OPG, come era quella degli ospedali psichiatrici civili, ha un'idea di salute mentale, di presa in carico di persone, persino di esecuzione della pena in un certo senso, che è sicuramente improntata non solo a criteri di umanità, ma anche di efficacia terapeutica. Il luogo in cui la cura si associa alla custodia, alla detenzione, raramente produce effetti di riabilitazione e reinserimento sociale. Perché sappiamo, possiamo ricordarlo, che insomma ci sono sempre state, ci sono forse anche, anzi, senza forse anche oggi, due esigenze. Una esigenza legata alla sicurezza, all'incolumità della collettività e anche delle persone stesse, perché si tratta di persone che in alcuni casi hanno commesso anche dei reati importanti, e dall'altra però anche un percorso di cura, di riabilitazione per delle persone semplicemente malate, che possono essere curate, prese in carico. Quante persone stavano negli OPG all'inizio di questa campagna, Cecconi? Beh, nel 2011 erano 1.400, poi via via sono scese fino ad arrivare alla cifra di 705 persone, quando la legge 81 del 2014 sancì la definitiva chiusura degli OPG, stabilendo appunto la data che poi non è stata rispettata in realtà, perché anche la data di chiusura, che era il 31 marzo 2015, è slittata di, come vediamo, di quasi due anni. Ecco, però è importante, sì, perché sono scese le presenze in questi luoghi, segno che ci possono essere percorsi alternativi alla logica. Ecco, spieghiamo questo, Cecconi, spieghiamo questo, è importante. Lei è molto preparato su questa vicenda, quindi ci può raccontare anche un po' i numeri. Di queste quasi 800 persone che c'erano all'inizio, oggi quali sono le vie d'uscita dall'ospedale psichiatrico giudiziario? Perché ci sono vari percorsi, a seconda anche della pericolosità sociale o delle necessità di cura. Ci vuoi spiegare? Sì, diciamo che la legge prescrive come prima misura quella alternativa alla detenzione, proprio secondo, naturalmente fatti salvi alcuni profili di sicurezza e alcuni casi particolari, ma la legge prescrive misure di sicurezza alternative alla detenzione, quindi si va dalla comunità terapeutica assistita alla residenza protetta, perfino in alcuni casi all'assistenza domiciliare, insomma tutte misure che bisogna ricordare sono fondate su progetti di cura firmati dai dipartimenti di salute mentale, ma che devono essere autorizzati dal magistrato. Dal magistrato, certo. Quindi non è che stiamo abbandonando le persone. Non c'è un liberi tutti, certo. Non è un'operazione di buonismo, è di intelligenza, io penso, civile, in questo caso anche sanitaria, terapeutica. Quindi le persone possono affrontare diversi percorsi. Una parte di queste persone invece rimane nelle REMS, in queste residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, che sono strutture di tipo pur sanitarie detentive, e quindi questo stride in qualche modo con il mandato che la riforma vorrebbe avere, quella cioè di privilegiare le misure alternative alla detenzione ove possibile, proprio perché sono molto più efficaci anche per il recupero delle persone e la riabilitazione. Naturalmente c'è una cosa importante che non va dimenticata: le persone con misura di sicurezza, siano esse detentive in REMS come primi in OPG o siano esse destinate a percorsi di cura fuori nel territorio, sono misure che sono perfette come su reato. Certo. Allora qui non abbiamo risolto alla radice la questione, qui bisognerebbe modificare il codice penale e dichiarare che ogni persona, anche quello che è definito incapace di intendere e di volere, va in giudizio, si è commesso un reato e viene giudicato colpevole, deve poi contare la pena. Mm. Allora io so che Cecconi tra l'altro sta facendo un viaggio in treno, quindi spero che riusciamo ad arrivare in fondo a questa telefonata, però c'è qualche problema perché lui è in treno, si sta spostando. E la domanda che le volevo fare, Cecconi, se mi sente ancora, mi sente? O è caduto? No, è caduto Cecconi. Anticipo la domanda, vediamo se possiamo recuperarlo nel frattempo. E la domanda è: quante persone stanno adesso in queste REMS, in queste residenze, e soprattutto qual è la differenza tra come si stava prima in un ospedale psichiatrico? Esatto, è quello, REMS, cioè la vera differenza fra OPG e REMS, esatto, è ciò che ci interesserebbe abbiamo capire. Visto, grazie alla Commissione Marino alcuni anni fa, immagini che pensavamo dimenticate, agghiaccianti, di posti dove si era oltre il limite del maltrattamento. Se ne occupò anche Napolitano, se non ricordo male, dicendo che era contrario a qualunque paese civile quello che accadeva nelle OPG. Esatto, quindi tutte le difficoltà a risolvere casi come questi, a portare a cura o a totale autonomia e indipendenza a persone che soffrono di disagio mentale, tutto quello che vogliamo, però sempre nel rispetto di criteri di umanità, di dignità umana. E quindi questo è il passaggio importante che questa settimana andiamo a celebrare ufficialmente con gli ultimi pazienti che lasciano l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. È tornato Cecconi? Gli ultimi sei sono, sì. Esatto. Eccolo qua, eccolo qua. La domanda cruciale, se riusciamo a fargliela Cecconi, è questa: che differenza c'è? Ricordiamolo, spieghiamolo bene alle persone, come si stava in un ospedale psichiatrico giudiziario e come si sta in una REMS oggi? Allora, l'OPG era il peggio del carcere e il peggio del manicomio, era proprio l'associazione dichiarata della logica manicomiale associata alla gabbia del carcere, e inevitabilmente, essendo affollati di persone con gravi problemi anche mentali, si trovavano in una situazione indecorosa, indegna. Napolitano l'ha definita, il Presidente, indegna per un paese civile. Nelle REMS, come in tutte le altre strutture alternative agli OPG, si sta infinitamente meglio, non c'è dubbio, però bisogna ricordare che le REMS sono non solo detentive, ma sono strutture speciali destinate solo ai matti, ai folli rei, e questo è il problema. Questa contraddizione va risolta, perché in qualche modo, anche se in questi luoghi ci sono operatori preparati, bravi, e si cerca di far prevalere la logica di cura, quella di custodia, rimane la specialità esclusiva per i folli rei, per i matti. Quindi questa è una contraddizione che dobbiamo superare. Cioè, mi scusi, all'interno delle REMS non ci sono solamente pazienti che devono anche scontare una pena, ma anche semplici pazienti? No, ci sono pazienti che devono scontare la pena, ma il problema è che sono strutture destinate esclusivamente alle persone malate di mente. È questa specialità, diciamo, che mentre il manicomio chiuso ha impedito l'apertura di strutture speciali e ha inserito per esempio i reparti ospedalieri per la psichiatria dentro gli ospedali civili, ha previsto che tutte le comunità per malati di mente siano comunque collegate al territorio. Noi dobbiamo evitare che esistano strutture speciali per gli autori di reato malati di mente, perché questa cosa è un retaggio ancora della logica manicomiale. pian pianino dobbiamo superarla. Prima ne parlavo quando parlavo della modifica del codice penale: chi ha commesso un reato va in giudizio e se è colpevole di cose gravi magari ovviamente deve anche scontare una pena, poi certo. Si deve porre il problema della giusta cura che la Costituzione stabilisce come preminente. Beh, molto giusto, come... questa sua precisazione sì. È molto giusta, credo che sia importante anche per i nostri ascoltatori, come perché capite... spesso poi se no ci si dice beh, ma allora uno dice non ero capace di intendere di volere, non vado nemmeno a processo, invece lei giustamente sta sottolineando che il processo va fatto e poi dopo certo. Si capirà sia come curare questa persona sia come farle scontare la pena. Come capite la vicenda non è affatto chiusa, però l'importante era sottolineare questo importante passaggio, la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari. Grazie a Stefano Cecconi per essere stato con noi. Grazie. E niente, chiudiamo, abbiamo un altro ascoltatore però non credo che riusciamo a farlo. In 20 secondi, Roberto da Roma, per chiudere la puntata. Vai, Roberto. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Volevo farvi fare una risata, insomma, perché nel lontano 87, parlo di un problema culinario. Sì. Nel 1987, in viaggio di nozze, mi trovavo le Seychelles. Cosa ti hanno proposto? Da mangiare? Allora, sì, mangiare pipistrello, specialità dell'isola, e chiaramente... Pipistrello? Il pipistrello, sì, il famoso pipistrello con un'apertura alare di circa 1,5 metri, insomma, i famosi vampiri dell'isola. Ma la cosa bella è stata che abbiamo mangiato questo pipistrello in due in tutto l'albergo, devo sì. dire che con tutte le spezie eccetera. Dobbiamo chiudere, Roberto, però. Allora, il libro è Kitchen Confidential, Anthony Bourdain, lo diciamo domani, chi ha vinto, perché dobbiamo pensarci bene, avete chiamato in tanti e c'erano tante belle telefonate. Grazie, Claudia Schiattone, Andrea Piana, Carmelo Rocella regia, noi ci sentiamo domani, ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, buon sabato. Ciao, domani.